Con Fabrizio Arcuri, ideatore del format Panorama Roma, all'Angelo Mai, 15 e 16 aprile 2019. Fabrizio, ben trovato. Buongiorno a voi, eccoci. Una seconda edizione, dici cos'è? Momentaneamente è un luogo ideale che tende alla prospettiva di diventare uno spazio, sostanzialmente. Di fatto è un luogo dove compagnie, gruppi, formazioni che si occupano di cultura contemporanea, dunque di teatro, danza, performance, video e qualsiasi altra forma artistica possibile, si confrontano e si confrontano con pubblico vario di operatori interessati, curiosi, studiosi su dei temi e su delle proposte, pertanto ognuno presenta in qualche maniera uno sharing, la condivisione di un progetto che nasce dunque da un'urgenza, da una necessità, e quella necessità diventa un po' il luogo di incontro, insomma il momento in cui ci si confronta. Queste prime tappe naturalmente sono un po' saprofitte, nel senso che si approfittano di spazi dove è possibile farli, perché ovviamente è un progetto che ha bisogno di essere presentato e ha bisogno che in qualche maniera diventi un po' evidente per poi passare ad una seconda fase, che è quella naturalmente di individuare uno spazio dove questo diventi la normalità, nel senso che la tensione è quella di costruire uno spazio, non un teatro, ma uno spazio dove realtà di nature diverse lavorano per dei periodi, si confrontano, si frequentano e creano dei momenti di apertura dove è possibile anche condividere con pubblico e persone interessate anche a seguire i processi, si condivide di fatto un'esperienza. Nei voti è una sorta di factory in fieri che dovrebbe diventare un luogo sostanzialmente di creazione e soprattutto di incontro e di crescita, perché credo che in Italia, ma a Roma in particolare, ogni volta che si sono create delle potenzialità di questa natura, poi dopo ne abbiamo raccolto i frutti, insomma, naturalmente tutte le altre occasioni, penso a Rialto, penso all'Angelo Mai, penso insomma agli spazi che in qualche maniera sono stati aperti a questo tipo di lavoro, hanno sempre prodotto poi delle generazioni di artisti interessanti e hanno soprattutto, come dire, costruito un pubblico, perché poi di fatto in questi luoghi si costruisce anche una convenzione sostanzialmente, no? Cioè si costruisce un tessuto comune, e credo che Roma abbia molto bisogno di uno spazio di questo tipo. Su quali artisti e compagnie si è rivolta la scelta quest'anno? La scelta in realtà, come è giusto che sia, risiede soprattutto in quelle compagnie che stanno lavorando su un nuovo progetto e sentono il desiderio e la necessità di confrontarsi su questo e si prestano a presentare la fragilità di questo passaggio del lavoro. Dunque non c'è una scelta, come è giusto che sia, nel senso che ovviamente non si tratta di selezionare, ma si tratta, come dire, di raccogliere e di fare in maniera che generazioni diverse di artisti convivano la stessa esperienza e traggano anche dei vantaggi in termini proprio di processo, di lavoro. È evidente che queste tappe sono delle tappe un po' esemplificative di quello che dovrebbe essere poi il progetto della sua estensione, no? Perché è chiaro che noi adesso ci incontriamo intorno a questi progetti che ci vengono presentati e si riflette e si discute non solo di, chiaramente, di contenuti, ma anche di politiche culturali, di strategie e di possibilità, diciamo così, di crescita del lavoro. Insomma, è chiaro che la tensione è quella di farlo diventare una cosa quotidiana e naturalmente questo al momento non c'è, dunque si tratta semplicemente di questo passaggio di raccogliere le forze e le energie per poter poi diventare strutturalmente un luogo dove questo avviene quotidianamente e giustamente avviene senza particolare selezione, ma appunto attraverso la necessità, quindi creare un luogo dove si può produrre gratuitamente e poi dopo naturalmente confrontarsi con altre realtà e poi attivare delle strategie di produzione effettiva del lavoro attraverso l'invito di operatori, di persone che poi dopo sono disposte a selezionare, a scegliere e ad accompagnare il lavoro. Uno strumento intermedio, ecco. Come saranno sviluppate queste due giornate? Allora, le due giornate iniziano alle 18.30 e si vedranno gli studi o comunque lo sharing di tre compagnie al giorno, a conclusione dei quali invece inizia una conversazione con il pubblico, quindi diciamo più o meno i gruppi si raccontano su che cosa stanno lavorando e aprono il proprio lavoro alle domande e all'interesse che più o meno hanno suscitato nei confronti degli assanti, delle persone che sono intervenute. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il format Panorama Roma all'Angelo Mai, 15 e 16 aprile 2019. Un saluto e un ringraziamento a Fabrizio Arcuri. Un abbraccio, un in bocca al lupo, risentirci presto. Grazie.